chiederei di raccontarci chi è Frivolamba e come nasce questo progetto e soprattutto come nasce questa fanzina. Allora, Frivolamba è una matta, no vabbè, Frivolamba è il nome che mi sono scelta da un annetto a questa parte, un nome completamente inventato e creato come scrivo nella fanzine. E appunto la Frivofanza nasce anche da lì, da quando è nata Frivolamba. Ne parlerò anche stasera alla presentazione, dato che è nata al Pride, a Rivolta Pride dell'anno scorso qui a Bologna. E diciamo che Frivolamba è, come scrivo, la mia occasione per ritrovarmi e riconoscermi. E la Frivofanza raccoglie proprio tutte, non tutte, però gran parte di episodi e cose che mi sono successe durante questo anno, cose più o meno divertenti. E quindi niente, parlo della mia esperienza come persona non binaria e del mio rapporto anche con, diciamo, un sistema che si basa essenzialmente sul binarismo di genere. Beh, direi che come incipit abbiamo sfondato il ghiaccio. Questa sera tu, appunto, come dicevamo prima, farai la prima presentazione in una forma un po' particolare, perché hai scelto di fare una stand-up comedy. E rispetto anche a quello che dicevi tu poco fa, che ti presenti, o comunque la Frivofanza nasce, ed è anche scritto molto bene all'interno del testo, anche in maniera ironica, ti chiedo come si collegano queste due cose e soprattutto perché questa stasera hai deciso di presentare la Frivofanza attraverso una stand-up comedy. Allora, questa cosa di cercare un po' dell'ironia sempre anche nelle cose un po' più brutte che mi succedono è una cosa che ho sempre avuto, per cui sono una che molto spesso tende a buttare in caciara le cose, anche le più serie, però sempre mantenendo il focus su dov'è la serietà e la gravità di certe questioni. Ho scelto di fare una serata stand-up comedy perché non mandava sinceramente di fare una, sapete, solite presentazioni, domande, risposte, eccetera, e quindi ho detto facciamo questo spettacolo in cui attraverso la stand-up comedy racconto altri episodi che mi sono successi appunto come persona non binaria che non ci sono nella fanzine, quindi insomma parlo della fanzine senza parlare della fanzine essenzialmente. Quindi questa potrebbe essere un'anticipazione di una Frivofanza 2.0? Chi lo sa, chi lo sa. Chi lo sa, lo scopriremo stasera, immagino. Sì, Allora, io ti faccio un'ultima domanda prima di magari sentirci un pezzo che ti vorrei dedicare, perché ho fatto una playlist apposta. Sì, pensata. Pensata e meditata a lungo. Ti vorrei chiedere se hai voglia di raccontarci uno degli episodi che racconti nella tua Frivofanza, però in realtà ti chiedo se hai voglia di raccontarci soprattutto il primo episodio, la prima storia con cui tu inizi la fanzina, che tra l'altro hai pubblicato anche tramite un video su Instagram, sui tuoi canali Instagram, che magari dopo ricordiamo perché sono importanti anche per acquistare la Frivofanza, che è secondo me quello più potente a livello di testo di tutta la fanzina, perché credo che ci sia un filo ironico, però in questo primo pezzo è come se tu dicessi chiaramente la Frivofanza è questo, però ora io racconto chi è anche Frivolamba e del perché io scrivo la Frivofanza. Sì, appunto il testo iniziale è un testo che avevo scritto per fare questo video da mandare ad una piattaforma che raccoglieva varie testimonianze di persone non binary. E quindi di base parlo di cosa significa per me essere una persona non binaria. Tra l'altro appunto fa molto ridere perché alla fine, cioè non fa molto ridere, però alla fine dico che non so nemmeno se mi riesco a sentire una persona non binaria, ma solo per il fatto che effettivamente ogni volta che dico che sono non binary devo sempre ritornare a parlare del binarismo. Io vorrei trovare qualche altro strumento, qualche altra parola per diciamo declinare il fatto che appunto voglio essere tutto quello che mi pare quando mi pare. E quindi sì, l'ho messo anche all'inizio della Frivofanza perché era giusto che le persone sapessero a cosa andavano incontro, diciamo, aprendo e leggendo i fumetti. Allora, adesso passerei alla dedica del pezzo, perché è una dedica nel senso che è pensata, perché tu nella Frivofanza c'è un momento in cui in una striscia di fumetto citi testualmente una canzone, sì, che tra l'altro tu suggerisci di leggere quella storia ascoltando questa canzone dei King Gizzard and the Lizard Wizard. E io ti dedico questa canzone dei King Gizzard and the Lizard Wizard, che è uscita l'altro ieri. Tu l'hai ascoltata? No, non ancora. Bene, adesso non mi va più il computer, non mi ricordo come si chiama, ma mi pare che si chiami Magenta Mountain. Mamma mia, mamma mia. Vero? Tutta testa l'hanno fatta. Magenta Mountain. Ah no, niente, io con questo gelato e niente, riesco solo a limonarmelo. No, ma anche con l'altro microfono. Ma io ho dei problemi, si sa, e ogni tanto li manifesto. Dicevo, Magenta Mountain dei King Gizzard and the Lizard Wizard ci riporta in diretta, e questo era il brano dedica della redazione di Ukulele. Grazie. Alla nostra ospite in studio Frivolamba, che è qua per presentare la sua fanzina Frivofanza, che presenterà questa sera al Gomalacca Caffè di via Ludovico Berti, numeri primi molto bassi. Dall'1 al 10, insomma, o l'1, esatto. E tra l'altro rientriamo in diretta con un messaggino per te, Frivo, e tra l'altro è la nostra paroliera ascoltatrice preferita, proprio, esatto. Oltre ad essere la nostra ascoltatrice preferita, e lo dice Rachele, sì, mi assumo questa responsabilità, e l'artefice di una rubrica importantissima all'interno di Ukulele, ovvero la rubrica delle parole desuete. E ci scrive: oggi nessuna parola desueta o intraducibile, solo tanto amore per questa artista emergente, fresca, ironica e sagace. Dai, è tutta Frivolamba, con un cuoricino e una freccina che come dire colpisce il cuoricino. Grazie, hai amore. Colpito il cuoricino di questa persona. Ti amo, Anna. Ecco, e subito posta del cuore. E subito spoileriamo il nome della nostra esatto. Mi spiace. Va bene, allora noi purtroppo quest'oggi non abbiamo tantissimo tempo, tantissime mezz'ore a nostra disposizione, quindi cerchiamo di essere anche abbastanza, come dire, puntuali rispetto a questa mezz'ora dedicata a Frivolamba, e direi di andare avanti con la prossima domanda. Questa un po' in generale, anche un po' sul metodo che ti sei data rispetto alla scrittura di questa fanzina, perché questa è una fanzina autoprodotta, e una fanzina che ha dei contenuti politici così precisi e così forti, che il fatto che di scegliere l'autoproduzione anche come metodo di stampa e di poi anche fruizione, ti chiedo se c'è una motivazione dietro a tutto ciò, e qual è? Beh, a me il mondo delle autoproduzioni mi ha sempre affascinato un sacco, soprattutto perché è veramente un mondo di sperimentazioni in cui tu puoi fare qualsiasi cosa in qualsiasi modo. Io poi sono andata molto sul semplice facendo questa fanzine, anche perché, come ho detto l'ultima volta, è nata da una necessità, quindi l'ho anche finita un po' di fretta. Però sì, ho scelto l'autoproduzione anche perché sentivo anche la necessità di condividere quello che mi è successo, quello che pensavo, la persona che sono diventata con altre persone. E la cosa bella, secondo me, delle autoproduzioni è questa: non c'è dietro nessun, diciamo, desiderio di guadagno, di denaro, assolutamente, perché, come ho detto l'ultima volta, i soldi che guadagno dalle fanzine li uso per ristampare altre fanzine, e quindi per me sì, è questo, grande condivisione, che è la bellezza alla fine di questa fanzina, al di là di quello che c'è dentro. E a proposito di quello che c'è dentro, tra l'altro voi con una Frivofanza non solo acquistate una fantastica fanzina autoprodotta, ma potrete diventare potrete, come dire, prendere in vostro possesso un fantastico poster che c'è anche a metà. Ah, sì. Perché una delle cose carine che Frivolamba ha realizzato all'interno di questa fanzina è anche la possibilità di staccare le due pagine centrali e attaccare un fantastico poster, tra l'altro, che potrebbe avere molteplici significati. Questo poster tu lo specifichi, come si dice? Con la K. Okay, grazie. La K. Scritto in corsivo, magari. cioè vi leggete la fanzina e poi potete strappare le pagine e o ve le appendete oppure ci fate i filtrini. Sì, non ve lo consiglio, forse perché la carta su cui l'ho stampata effettivamente per i filtrini non è buonissima. Cioè forse vi vengono due polmoni. Sì, quella plasticata un po'. Ma a questo punto ti chiedo anche com'è possibile acquistare la Frivofanza. Allora, la Frivofanza la potete acquistare seguendomi su Instagram, sul mio profilo Frivolamba Comics. Mi scrivete in DM e magari se siete a Bologna ci vediamo, ci beviamo una birretta e vi do la fanzina, altrimenti ve la posso spedire. E naturalmente stasera farò un bel banchettino con fanzine, adesivi e stampe. Quindi. Bene, quindi ricordiamo ancora una volta l'appuntamento, perché se non fosse ancora chiaro, questa sera via Ludovico Berti, il numero ignoto, io dico uno, secondo me è uno, al Goma Lacca Caffè, comunque per la presentazione della Frivofanza con stand up comedy. E a seguire, tra l'altro, io le nominerei un fantastico DJ set dal trio transfemminista Le Ano Ano Ano Way. Anche questa collaborazione, come non sono secondo me delle DJ a caso che sei andata un po' a pescare. No, a parte che mi hanno pescata loro, ecco. No, loro mi hanno fatto questa bellissima proposta, Le Ano Ano Ano Way. Questa volta sono stata brava, l'ultima volta ho detto un anno in meno. Ecco, offese. Me l'hanno proposta loro questa cosa, loro sono amiche, sorelle, compagne, quindi mi ha fatto super piacere che me l'abbiano chiesto, io super felice, sarà bellissimo. Bene, io direi che concludiamo questa intervista con due domande stupide, quelle che fanno un po' così di getto le persone. Un po' ridere. Ma no, neanche ridere, insomma. Uno, perché esserci questa sera alla presentazione della Frivofanza? Beh, perché ci divertiamo, io sarò ubriaca con un microfono in mano, per cui cioè meglio di così, e poi soprattutto perché potremo ballare sui grandi ritmi delle Ane e cioè io penso che ci divertiremo un sacco, quindi cioè basta. Seconda domanda, questa conclusiva un po' romanticona, c'è qualcuno, molteplici persone a cui dedichi? Chi? Niente, oggi con la CK dei problemi, la CH dei problemi, questa fanzina. Sì, vabbè, la dedico a tutta la mia sfamiglia, come l'ultima volta non sto qua a fare nomi perché sicuro me li scordo. E poi si offendono questa sera, non mi offrono da bere, quindi tutta la mia sfamiglia, tutte quelle persone che mi hanno accompagnato e mi stanno ancora accompagnando tuttora, vi amo tantissimo, tantissimissimo. Io direi che su queste note di romanticismo possiamo andare a chiudere questa presentazione. Io Frivo ti ringrazio e vabbè, noi chiaramente ci vediamo dopo. Grazie a voi. E chiaramente grazie per essere stata qua, ovviamente. Invitiamo tutte e tutti in ascolto ad andare al Goma Lacca questa sera per la presentazione di Frivo e anche per acquistare la fanzina, la Frivofanza.